Cos'è questo vento siracusano che mi carezza il cuore nella frescura di una serata di marzo? Cosa vuole con queste parole soffiate piano piano? Vorrei essere vento e correre lontano per le strade del mondo con te, amore mio. Che ascolti il vento in una serata come questa.